Salva Danaio. Buona giornata da Valentina Furlanetto, ultimo giorno della settimana di Salvadanaio, sono le 12:11 minuti e 59 secondi. Andiamo oggi a parlare, come ho anticipato durante il collegamento nel nostro GR, di spread, non quello che di cui sentite parlare tutti i giorni, ossia il differenziale tra BTP e Bund, ma di uno spread dei diritti dei cittadini violati, quindi il differenziale fra i servizi che vengono promessi, che sarebbero appunto all'interno dei nostri diritti di consumatori e cittadini, e invece quelli che vengono effettivamente erogati. Non meno importante quindi del differenziale che teniamo d'occhio ogni giorno, quello finanziario, sono gli aggiornamenti quindi su quello che accade nella nostra vita quotidiana, le pratiche illecite o aggressive, i servizi pubblici di qualità scadente, gli errori nelle fatturazioni, nei ritardi in tantissimi settori, dall'energia elettrica alla telefonia, dall'ambito bancario finanziario ai trasporti. Ne parliamo grazie a una ricerca di Cittadinanza Attiva che ha monitorato 8.000 segnalazioni dei consumatori, e lo facciamo grazie e soprattutto chiedendo anche a voi ascoltatori di raccontarci le vostre esperienze, di portarci le vostre testimonianze e ovviamente di chiedere ai nostri esperti nel caso come muoversi di fronte a questi soprusi. Chiediamo quindi a voi di chiamare al 800 24 00 24, oppure se volete mandarci un sms al 349 238 6666. Quali di servizi e scorrettezze avete subito negli ultimi mesi, come ve ne siete accorti, come avete reagito, siete riusciti a venirne a capo, ad avere giustizia? Ne parliamo questa mattina con Antonio Gaudioso, vice segretario generale di Cittadinanza Attiva. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. E con Mario Finzi, presidente dell'associazione Asso Utenti, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Dalle 12:30 circa avremo anche un altro interlocutore con il quale dialogare, che presenteremo poi. Io vi invito a chiamare, come ho detto poco fa, all'800 24 00 24. Prima di spiegarvi nel dettaglio, nella nostra scheda, di cosa andiamo a parlare, diamo come sempre uno sguardo ai mercati, che, come abbiamo detto nel collegamento durante il radiogiornale, stanno andando proprio bene. FTSE MIB a più 0,99%, FTSE All Share più 1,01% in questo momento, e anche per tutta la mattinata, a dir la verità. Piazza Affari è risultata la migliore, Francoforte infatti guadagna lo 0,31%, Parigi più 0,22%, un po' peggio va a Londra, che in questo momento è un po' sotto la parità, meno 0,08%. Come dicevamo durante il radiogiornale, le borse europee stanno beneficiando delle dichiarazioni di Christine Lagarde, direttore generale dell'FMI, secondo la quale le banche spagnole, insomma, avrebbero bisogno di meno aiuti del previsto. Anche lo spread in Italia, e questa volta parlo dello spread fra BTP e Bund, sta calando. In mattinata, in apertura, era a 333, ora è un po' salito a 335. Per quanto riguarda i titoli sul paniere principale, diamo uno sguardo: rimane la migliore banca Monte dei Paschi, più 2,81, è una giornata positiva in generale per i bancari. Mediobanca più 1,77, UbiBanca più 2, Intesa più 1,88, Popolare più 1,9, Unicredit più 1,11%. Bene anche Mediolanum, più 2,58, Telecom più 2,21, Enel più 2,08. Mediaset guadagna l'1,84%, prima aveva fatto molto meglio, rimbalza quindi il titolo dopo una settimana nera che anche in scia alle indiscrezioni che la volevano interessata alla 7, l'ha vista perdere quasi il 10%. Oggi il titolo guadagna dopo che ieri il nuovo operatore virtuale di telefonia Bip Mobile ha annunciato che investirà nei prossimi 24-36 mesi 100 milioni pubblicità sulle reti del Biscione. Eni e Enel positive, Eni più 1,21, Enel più 0,55, in rialzo anche il greggio questa mattina sia a New York che a Londra, Fiat più 0,64, deboli Tenaris meno 0,68, ST Microelectronics meno 0,77, Azimut meno 0,16%. Fuori dal listino principale segnaliamo il rally delle Edison Risparmio, già scattato il giorno successivo al delisting delle ordinarie, il giorno 11 settembre, quindi a seguito dell'OPA residuale di EDF, e poi RCS che torna a guadagnare in borsa nel giorno della riunione del patto di sindacato che si terrà nella mattinata, quindi che si è tenuto questa mattina. Ovviamente il mercato si interroga in questo caso anche sulle azioni da mettere in campo per far fronte alle necessità del gruppo, tra cui anche un aumento di capitale ipotetico di 400 milioni. Euro in rialzo sul dollaro 1,30 e 23, e chiudiamo così con l'euro, con il mercato dei cambi, la nostra pagina finanziaria. Torniamo al nostro tema, lo spread dei diritti. È in realtà una metafora abbastanza efficace, devo dire, che è stata usata proprio da questo rapporto a cui mi riferisco di Cittadinanza Attiva. Abbiamo con noi, come dicevo, il vice segretario generale che poi ce ne parlerà, ma sentiamo in dettaglio di cosa si tratta nella nostra scheda. Sono tanti i volti della crisi economica che stiamo attraversando, purtroppo poco incoraggianti, soprattutto dal punto di vista dei cittadini e dei consumatori, che si ritrovano a subirne ogni giorno il contraccolpo. Ci sono i prezzi che crescono, le tasse che si moltiplicano, il lavoro sempre più difficile da trovare e da mantenere. Ma ci sono anche altri aspetti: i disservizi, la bassa qualità e talvolta anche lo scarso rispetto dei diritti delle persone. Sono le conseguenze delle difficoltà economiche e del malfunzionamento di molte aziende, ma anche degli enti locali e di tutte le organizzazioni che dovrebbero assicurare servizi corretti e puntuali. Secondo un'indagine dell'Associazione Cittadinanza Attiva, sono in crescita le segnalazioni per pratiche commerciali illecite o aggressive, ad esempio nel settore dell'energia elettrica e della telefonia. E sarebbe in netto peggioramento anche il rapporto qualità-prezzo sul versante dei servizi pubblici locali. Bollette più care, insomma, a fronte di un servizio più scadente, se non anche di errori, ad esempio nei calcoli delle tariffe e della fatturazione. Al primo posto di questa triste classifica si trovano le telecomunicazioni, che raccolgono il 22% delle segnalazioni prese in considerazione, circa 8.600, seguite dal settore dell'energia e dei servizi bancari e finanziari. I cittadini, insomma, pagano la crisi non solo in termini economici, ma anche in termini di tempo e di attese. Ci vogliono 300 euro per disdire un contratto di telefonia fissa e si aspettano anche 7 mesi per ottenere l'effettiva erogazione di un mutuo. Bisogna imparare a difendersi da questa congiuntura non solo con un'attenzione sempre maggiore al risparmio, ma anche con un occhio vigile, capace di accorgersi e di denunciare un diritto calpestato, una promessa non mantenuta, un servizio inefficiente. Quali disservizi o scorrettezze avete subito negli ultimi mesi? Come ve ne siete accorti? Come avete reagito e siete venuti a capo della questione? Qual è, insomma, lo spread fra i servizi che vi sono stati erogati e quello che vi era stato promesso? Potete parlarcene, potete fare delle domande anche ai nostri esperti all'800 24 00 24. Antonio Gaudioso, vice segretario generale di Cittadinanza Attiva, che appunto ha redatto questo report, che è abbastanza interessante e allarmante. Noi non vogliamo fare dell'allarmismo, ma insomma segnaliamo appunto, come diceva nella scheda, che le telecomunicazioni, lo spread dei diritti nel settore telecomunicazioni, insomma, è il peggiore e peggiora rispetto all'anno precedente, è così? Sì, peggiora purtroppo non solo appunto in questo ambito, ma anche in quello dell'energia, in quello della pubblica amministrazione, nei servizi pubblici locali. La cosa che colpisce, e a proposito anche del rapporto con le imprese che erogano questi servizi, è che uno si immaginerebbe che in un mercato vero la competizione venga fatta sulla qualità, sul costo, sui prezzi, sulla possibilità per i cittadini di decidere partendo da questo tipo di presupposti. Invece quello che si vede nella quotidianità, e purtroppo l'abbiamo segnalato, non siamo stati soli, è che si utilizzano pratiche commerciali scorrette, prima per acchiappare e poi per non far scappare il malcapitato utente o consumatore. E devo dire che la cosa che aumenta non sono solo le pratiche, ma commerciali scorrette, ma anche il fatto che si rivolgono alle associazioni di tutela dei consumatori non più solo i cittadini, gli utenti, ma tantissime piccole e medie imprese che si trovano con lo stesso tipo di problema e che quindi chiedono aiuto per tutelarsi da diciamo una sorta di tassazione ombra che si aggiunge anche al peso elevato delle tasse del nostro paese. Gaudioso, voi lo collegate alla crisi economica, questo aumento del differenziale tra servizi erogati e promessi, perché? Beh, perché diciamo che in una fase di questo genere per evitare di perdere clienti o per la pressione che c'è anche nei confronti all'interno delle imprese per avere sempre marginalità più alti o per mantenere le marginalità che ci sono, si utilizza ogni tipo di stratagemma, alcuni assolutamente paradossali, per cui veniva segnalato che ad esempio nell'ambito dell'energia, lo abbiamo riscontrato tante volte, si tende a dare informazioni assolutamente sbagliate o scorrette nei confronti delle persone, inducendole a cambiare operatore anche quando non è necessario, piuttosto che si danno informazioni parziali sulla possibilità che, diciamo, ad esempio l'operatore che è in quel momento attivo e che non vuole perdere cliente dice che se nel momento in cui si cambia operatore nel campo dell'energia non ci sono più le garanzie sulla sicurezza degli impianti, che è una stupidaggine, e cose di questo genere. E ovviamente quando c'è la crisi economica il livello di pressione aumenta di più e, aggiungo, si sente moltissimo il taglio dei servizi sul territorio, ad esempio nella pubblica amministrazione. Se fino a un po' di tempo fa si parlava di servizi nel trasporto pubblico locale di scarsa qualità, ora si parla di assenza di servizi. E questo è assurdo, perché con i tagli che sono stati fatti ad esempio nell'ambito dei trasporti, tantissime linee per i pendolari non ci sono più. In alcuni settori però, visto che è lievemente migliorata la questione, ad esempio avete ricevuto meno segnalazioni per i servizi erogati da banche finanziarie, questa è una buona notizia, sempre da monitorare con cura, però forse questo è qualcosa è stato fatto anche dal punto di vista magari dell'informazione in questo anno, o a cosa lo attribuisce questo miglioramento? Beh, diciamo a due cose. La prima è che bisogna dare atto al lavoro che è stato fatto dalle associazioni dei consumatori con l'ABI, sicuramente è aumentato il livello di informazione e anche la percezione sui propri diritti da parte dei cittadini. Va anche detto che per quanto riguarda ad esempio l'ambito bancario le segnalazioni sono di meno, perché si riesce a ottenere anche meno servizi. Ad esempio è diventato un'odissea in molti casi la possibilità di accedere ai mutui e questo è un problema, per cui devo dire che da questo punto di vista in positivo c'è anche le grandi campagne di informazioni che sono state fatte, il coinvolgimento attivo sia delle associazioni bancarie che delle associazioni dei consumatori. Dall'altro, in questo caso, più che di cattivo servizio aumentano le segnalazioni sulla mancanza, sulla difficoltà di accedere di erogazione magari dei mutui, certo. Mario Finzi, presidente dell'associazione Assoutenti, le tornano questi dati? C'è in effetti un peggioramento nell'erogazione dei servizi, più di servizi, più segnalazioni? Ma guardi, il rapporto di più servizi è come al solito molto interessante e molto accurato. Nel settore dei trasporti però io non mi sento di ritenere sufficienti questi dati per rappresentare la situazione esistente, non perché non sia fatto bene, ma perché purtroppo, come diceva anche Odioso giustamente, sono dei dati che sono già superati dalla velocità con cui peggiora il servizio. Siccome sono basati sulle segnalazioni dei cittadini dell'ultimo anno, e c'è anche un altro aspetto, e cioè che quando un servizio decade oltre un certo limite gli utenti perdono proprio la speranza negli effetti dei reclami. In effetti le segnalazioni, scusi, del 2011 per i servizi pubblici locali e i trasporti, che su ambito forse più forte di competenza, sono leggermente migliorate secondo questo rapporto, ma lei dice è già stato superato dalla realtà. Io dico che in certi settori è più difficile reclamare che in altri, per cui ci può essere un effetto di questo genere. Poi c'è un problema nei trasporti ancora più grave, perché il peggioramento non è soltanto quello qualitativo, per rispetto al quale siamo abituati, diciamo, a lamentarci, ma c'è proprio un peggioramento quantitativo dei servizi offerti. E questo sembra una cosa, diciamo, sulla quale è più difficile reclamare. E questo è un fatto che noi riscontriamo dall'altro in tutti i settori, sia fortissimo nelle ferrovie regionali, abbiamo, diciamo, rivoluzione tra i pendolari su questo, ma anche per esempio nei traghetti per le isole, i pendolari del Golfo di Napoli ci inondano di proteste, sui voli aerei anche, ma questo lo dice anche Pit Servizi molto bene in questo rapporto, le lamentele sono tantissime, quindi non è soltanto in discussione il costo o la qualità, ma sempre più la quantità dell'offerta di servizio pubblico che si riduce, con tagli di linee, minori frequenze, eccetera. Noi adesso il 6 ottobre, anche insieme a tutte le altre associazioni dei consumatori, stiamo convocando la prima assemblea dei pendolari a Roma, e il titolo che abbiamo dato a questa riunione è proprio questo: trasporto pubblico è ancora un diritto. Ecco, qui ci sono molti responsabili su questo, c'è il governo sicuramente, le regioni, le imprese. Certo, gli interlocutori nel caso del trasporto pubblico e quindi dei pendolari sono più di uno, e ognuno di solito è in grado di passare la palla e quindi le responsabilità all'altro. Vorrei dare la voce a un ascoltatore che è in linea, che è in attesa. Le chiedo, Pino d'Arezzo, buongiorno, benvenuto. Le chiedo velocemente di fare la sua domanda, poi andremo a sentire un po' come sta andando il meteo. Sì, appunto, sì. Raccontare una esperienza che... tempo fa io venni contattato da una società, non so se posso dire il nome o meno, telefonica, sì, perché voleva subentrare all'attuale gestore, no? E per telefono, insomma, mi fecero un sacco di prospettive, promesse, eccetera, eccetera, e quindi feci dicendomi che poi avevo 10 giorni per il diritto di recesso e così via. Mi fecero la registrazione vocale per... Sì, della disdetta. Poi c'erano dei problemi tecnici, per cui poi io ho scoperto che mi avevano raccontato anche un sacco di balle. Alla fine, insomma, è riuscito a fare questa disdetta? No, alla fine io ho fatto la disdetta dopo 3 giorni, quindi entro, sì, i 10 giorni, con raccomandata ricevuta di ritorno, perché sono andato nel sito, ho trovato tutto, perché contattarli è impossibile, io un fax di disdetta gli avevo mandato subito, ma quello non conta, ho usato proprio tutto quello come dice nelle clausole contrattuali, raccomandata, ricevuta di ritorno, eccetera, eccetera. Dopo una decina di giorni mi vedo arrivare un pacco con dei telefoni cellulari che erano previsti, e io gli ho mandato un fax dicendo: guardate, mandate un corriere a ripigliare i vostri telefoni cellulari perché io ho già attuato il diritto di recesso. Questi qui, niente, nessuno mi ha cercato, nessuno mi ha chiamato, e continuano a fatturare, sono 3 o 4 mesi, mandano fatture. Ho capito, per un servizio che loro non hanno. Certo, non sono, è chiaro, è chiaro. Continuano ad arrivare le fatture. Bentornati a Salvadanaio. Stiamo parlando con voi e con i nostri interlocutori di diritti dei cittadini, di soprusi, anche che questi cittadini che noi subiamo tutti i giorni, purtroppo, dal malfunzionamento che è stato riscontrato in una ricerca di Cittadinanza Attiva, che ha pubblicato questa ricerca per capire in quali settori ci sono più servizi di segnalazioni di servizi e come stanno andando queste segnalazioni rispetto all'anno precedente. Quindi Cittadinanza Attiva ha chiamato questa differenziale tra servizi effettivamente erogati e servizi promessi, spread dei cittadini, e purtroppo, come si vede dalla ricerca, questo spread peggiora, sale in quasi tutti i servizi. Abbiamo avuto un ascoltatore poco fa, Pino da Arezzo, che ci ha posto una questione interessante che riguarda le telecomunicazioni. Antonio Gaudioso ha sentito che cosa diceva Pino, ha cercato di recedere da una compagnia telefonica e poi ha continuato a ricevere le fatture. È abbastanza frequente, mi pare di capire, questo disservizio al centro delle lamentele della telefonia mobile, no? Il signor Pino ha fatto esattamente, purtroppo, l'esempio tipico di una cosa che accade. Lui si è comportato in maniera assolutamente corretta, ha fatto quello che doveva, non ha niente da temere, ma alla fine il problema è che, visto che parliamo di comportamenti da parte delle aziende assurdi per tentare di beccare a tutti i costi il cliente, il soggetto in questione ha comunque mandato a casa del signore i prodotti, nonostante lui avesse fatto esercitare il diritto di recesso, perché alla fine ci provano comunque. Va detto una cosa, che da questo punto di vista io penso che debba essere di molto, anche dal punto di vista simbolico, rafforzato il potere sanzionatorio, che già è in capo all'autorità per le comunicazioni. Tenete conto che lo scorso anno 10 società sono state sanzionate per comportamenti scorretti nel trasferimento dei clienti, per un totale di poco meno di 2 milioni di euro di multa. Francamente, società che fatturano miliardi di euro, centinaia di milioni, e che quindi queste multe forse sono disponibili a pagarle, esatto, nel senso che pur di avere queste campagne aggressive, esatto, pur di continuare, esatto, rischia di essere, diciamo, una rientrare come costo di marketing. E francamente penso che da questo punto di vista invece andrebbero fatte delle azioni anche dal profondo valore simbolico, anche dal punto di vista economico, perché l'unico modo per disincentivare è dare un segnale inequivocabile che non conviene neanche dal punto di vista economico. Ci vorrebbero quindi delle multe un po' più ingenti. Direi di sì. Allora, infatti leggevo nel vostro rapporto che riguardo alla telefonia mobile le principali criticità segnalate sono quelle proprio del cambio operatore, poi la scarsa trasparenza della bolletta, la disdetta dei contratti e seguono una serie di altre segnalazioni. Invece per la telefonia fissa, Gaudioso, mi pare di capire che il grosso delle lamentele, il 62% delle lamentele riguardano la telefonia fissa e in particolare anche qui la disdetta di un contratto. Sì, e infatti bisogna dire da questo punto di vista, alla faccia della legge Bersani, viene da dire, esatto. No? Non solo alla faccia della legge Bersani, ma se i nostri ascoltatori tengono conto di un dato tanto piccolo quanto rilevante, cioè che nel corso degli anni c'è stata l'esplosione della telefonia mobile nel nostro paese, quindi praticamente c'è un numero di linee mobili che hanno superato già da qualche tempo il numero delle linee di telefonia fissa, ma il livello di segnalazioni da parte dei cittadini è proporzionalmente molto molto molto più alto per la telefonia fissa. Vuol dire che si tenta di fare di tutto, perché poi è collegata anche ai servizi a valore aggiunto, quindi alla DSL eccetera eccetera, si tenta di fare di tutto, di tenersi ben stretto il cliente quanto lo si ha, perché ovviamente lì ci si guadagna parecchio. Certo. Poco con la telefonia fissa, molto con i servizi a valore aggiunto. Ecco, e in questa top 10 dei disservizi, dopo le telecomunicazioni vedo l'energia. Ovviamente si parla di energia elettrica, il nodo più critico resta, mi pare di capire, la bolletta, con errori nel conguaglio, scarsa trasparenza delle voci ed errata fatturazione. Ma preoccupa soprattutto anche il settore del gas, no? Qui le segnalazioni sono in aumento recentemente. Sì, sono in aumento perché c'è un problema che abbiamo più volte segnalato all'autorità per l'energia elettrica e il gas, cioè che nel campo del gas non si è arrivati ad una piena mobilità e pieno diritto di scelta, così come c'è nel campo dell'energia elettrica, per cui nel gas, per utilizzare un eufemismo, il monopolista ha rallentato ancora di più il processo, e questo ha creato moltissimi problemi. Tenga presente ad esempio che con lo stesso con una proporzione anche molto diversa rispetto alla telefonia, perché in questo caso parliamo di persone che hanno contratti del gas che sono molto minori per quanto riguarda la liberalizzazione rispetto a quelli dell'energia elettrica, abbiamo un livello di segnalazioni per il gas rispetto al totale dell'energia che è del 45%. Questo ci dà un'indicazione molto chiara di come bisogna intervenire molto rapidamente, perché poi mancano le letture, perché poi arrivano le maxi bollette quando uno cambia, perché poi, ed è capitato per molto spesso, non ti arrivano le bollette del nuovo operatore per oltre un anno e mezzo, fino poi ad arrivare a cose paradossali, con tentativi di imbonire per far cambiare operatore, anche con offerte assurde, ed è capitato un episodio simpatico poco più di un anno fa, per cui un gruppo di ragazzi è andato persino a casa del presidente dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, il precedente presidente, non sapendo chi era e tentando di convincerlo a cambiare operatore. Sì, questo è divertente così, però insomma dà il segno dell'aggressività delle aziende. Mario Finzi, con lei appunto ci volevamo concentrare, come lei ha già iniziato a fare, sulla questione dei trasporti, perché anche qui i disservizi sono molti, soprattutto lei accennava al trasporto pubblico locale, alle ferrovie, ma anche agli aerei. Lei ne ha accennato prima, la cancellazione del volo è la prima segnalazione in percentuale, poi lo smarrimento dei bagagli e l'overbooking. Avete notato in questo settore un peggioramento da quando siamo in questa fase di crisi? No, io non direi che c'è un peggioramento, diciamo, da collegare alla crisi. Secondo me c'è, intanto, per esempio, per quanto riguarda la consegna dei bagagli, una scarsezza di investimenti nel miglioramento dei nostri aeroporti, e quindi sono impianti obsoleti, e nonostante questo il costo delle tasse aeroportuali cresce continuamente, e questo, diciamo, è una cosa che lamentiamo di continuo. Sì, le segnalo che un ascoltatore al 349-238-6666 via SMS dice: ho fatto un viaggio in aereo nell'agosto 2011, ho smarrito i bagagli all'andata, avevo l'assicurazione Europe Assistance, a distanza di un anno dal viaggio ancora niente, è impossibile avere risposte serie, ovviamente si sente impotente questo ascoltatore, come casi, altri nella sua situazione, immagino. È tra la compagnia aerea che fa il trasporto fisico del bagaglio e le società di handling degli aeroporti che gestiscono la fase di riconsegna, ed è sempre in questo palleggiamento di responsabilità, il cittadino rimane in mezzo, non sa a chi rivolgersi. Ma voglio dire, non c'è solo questo, nonostante la legge Bersani indicasse per esempio che nell'indicazione del costo dei voli bisogna indicare tutte le voci di spesa, continuiamo a vedere, soprattutto quando acquistiamo un biglietto via internet, che la prima, diciamo, indicazione di prezzo è di un certo livello, ma poi quando si va effettivamente a pagare, a passare la carta di credito, invece vengono aggiunte altre voci. Ecco, abbiamo citato, lei l'ha fatto adesso, io l'ho fatto prima, la legge Bersani due volte. Gaudioso, però la legge in effetti andava incontro a una liberalizzazione e anche a un abbassamento teorico delle tariffe. Cos'è successo? È rimasta sulla carta? Viene calpestata più volte? Perché sennò sembra colpa della legge Bersani, quando no, il contrario. No, il problema è che nel nostro paese c'è proprio un modello e un'attenzione a tentare di far sì che il libero mercato e il diritto di scelta dei cittadini sia un optional, nel senso che la legge Bersani ha introdotto una serie di principi molto, molto importanti, fondamentali, ma ovviamente richiede tutta una serie di azioni a supporto, nel senso che di per sé da sola ovviamente non basta a cambiare una serie di atteggiamenti. Ricordo anche insieme all'amico Finzi, alla sua associazione e una serie di altre associazioni, di come ci siamo battuti quando c'è stata la possibilità della portabilità dei mutui, oppure il tema dell'eliminazione delle spese per l'estinzione del conto corrente. Ebbene, è uscito dalla porta ed è rientrata la spesa dalla finestra, cambiando nome fondamentalmente La legge, insomma, trovato anche l'inghippo. Ci ha raggiunti Fabio Picciolini, presidente del Consumers Forum. Buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Non abbiamo tantissimo tempo e ho molti ascoltatori che sono in attesa all'824-0024, che hanno fatto questo numero per intervenire, quindi chiederò agli ascoltatori e anche voi interlocutori di essere abbastanza brevi. Giovanna da Torino, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Sarò sintetica. Sì, grazie. Sono passata dal contratto Enel al contratto Sorgenia. con l'Enel avevo delle fatture di 900 euro al bimestre, con la Sergenia mi sono ritrovata 1.800 euro. Ho fatto presente che forse c'era qualcosa che non andava alla Sergenia, ma inizialmente pensavamo fosse un problema di lettura. In realtà poi, andando a controllare meglio, il discorso era che il prezzo che io pagavo alla Sergenia era doppio. E questo non era chiaro nel contratto con il quale è passata? Assolutamente non era evidente. Grazie. Perché ci sono delle voci che sono aggiuntive, voci che variano e che quindi... Certo, e lei viene a pagare il doppio. Grazie Giovanna, le faccio rispondere proprio da Fabio Picciolini. Questo è proprio un caso in cui ovviamente l'utente si trova spiazzato, quantomeno. Ma rispondere alla signora Giovanna purtroppo è semplice. La signora è passata certamente al mercato libero, per cui è passata in una situazione che il contratto, appunto il nome stesso lo dice, può essere diverso rispetto a quello iniziale con cui lei aveva con Enel, che era, chiamiamolo, mercato amministrato. Ma se mi permette, visto che sì, parlo come Consumer Forum, quindi devo rappresentare imprese e associazioni di consumatori, l'aspetto importante è questo, è che queste situazioni debbono essere affrontate proprio in sedi al di sopra del contenzioso che può esserci per la signora Giovanna come per altri, perché vanno trovate soluzioni a monte, soluzioni in cui le parti sociali in rappresentanza, da un lato gli utenti, dall'altro stessa persona il consumatore, riescano a trovare delle proposte per cui sia molto più chiaro che, passando ad esempio al mercato libero dell'energia, i costi, al di là di un'iniziale convenienza dovuta alla pubblicità, al marketing, all'avvio di un contratto, alla fine possano essere anche diversi, fermo restando che magari... Ma possono anche essere il doppio addirittura? Il doppio, probabilmente sono anche altri servizi che precedente la signora Giovanna non aveva. Però ecco, io questo mi interessava far notare, l'importanza di avere un soggetto, appunto come Consumer Forum, che riesca a far confrontare Enel Sergenia con le associazioni di consumatori, ma questo può valere per la telefonia, per le banche, per i trasporti e via dicendo, in cui vengono trovate soluzioni a monte, dove non sarà più necessario in prospettiva avere del contenzioso individuale. Certo, un tavolo che riunisce tutti gli interlocutori. Esatto. Grazie. Mara da Pavia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Qual è il suo caso? Qual è il servizio di cui è stato oggetto? Al momento non è di servizio, almeno non spero. È una proposta di modifica unilaterale di fornitura che ho ricevuto dal mio fornitore di gas. Posso dirlo, non dirlo? Sì, certo, certo. E.ON. Che propone, ed è comunque un'offerta unilaterale, a meno che io dica non l'accetto, entro un mese dalla ricezione della lettera, un contratto, offerta E.ON Gas 5 Casa, in cui mi spiegano che darebbero uno sconto del 5% sulla materia prima gas, che è il 52% di quello che è in bolletta, però su base di coefficienti di calcolo di prezzo che io, non essendo ingegnere, proprio non riesco a capire. Certo, certo, ed è comprensibile. Cioè, cosa deve fare? Certo. Piattaforme, cose che aiutano a scegliere queste forniture, certo, che sono tantissime, poi magari si scopre, come con l'ascoltatore precedente, che costano il doppio. Grazie Mara, grazie. Antonio Gaudioso, in effetti quella che pone Mara è una domanda tipica, no, dell'utente medio, come potrei essere anch'io. Non siamo ingegneri, non possiamo comprendere tutti i dati che ci vengono forniti. C'è una piattaforma, magari potrebbe essere utile, forse voi riuscite anche ad aiutare i consumatori in questo. Guardi, due o tre cose rapidissime per la signora. Primo, e per tutti i nostri ascoltatori. Primo, c'è un servizio ben fatto sul sito dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, www.autorita.energia.it, dove c'è la possibilità di consultare le tariffe. E questo è fondamentale, perché il diritto di scelta da parte dei cittadini passa attraverso la possibilità di confrontare e vedere cosa mi conviene in base al mio consumo, perché l'offerta non è buona o cattiva in generale, dipende da come consumo e da che utilizzo lo faccio. Ad esempio, nel caso specifico varia se utilizzo il gas solo per il riscaldamento o ad esempio anche per cucinare. Seconda cosa, nel momento in cui arriva una proposta di modifica unilaterale nel momento in cui vogliamo fare degli approfondimenti e non ci basta quanto ci dice il sito dell'autorità, consiglio sempre di chiedere un consiglio, una consulenza ad una delle associazioni che si occupano di tutela dei diritti dei consumatori, ovviamente la mia, ma non solo, ve ne sono anche altre, che collaborano insieme, hanno un progetto attivo che si chiama Diritti a Viva Voce, che ha proprio l'obiettivo di occuparsi dei problemi degli utenti del settore energetico. Terza cosa, non ce lo dimentichiamo mai, c'è sempre la possibilità, nel momento in cui arriva una proposta di modifica unilaterale, di cambiare operatore. Grazie. Gennaro da Napoli, buongiorno, benvenuto. Velocemente perché siamo in chiusura. Sì, buongiorno. No, io volevo soltanto testimoniare una soluzione positiva a un problema che magari potrebbe essere un suggerimento per altri. In effetti sono passato da un gestore di rete fissa telefonica ad un altro utilizzando il sistema del codice di disattivazione che viene riportato sulle singole bollette. Il gestore precedente mi ha addebitato le spese di distacco ed io, dopo una ricerca, ho fatto una diffida dicendo che non erano dovute e ho per conoscenza informato l'AGCOM. Da quel momento, passato circa un anno, l'AGCOM mi ha risposto dicendo sostanzialmente che avevo ragione e il gestore precedente non mi ha fatto sapere niente più. Questo è tutto. Quindi insomma, attraverso l'intervento di AGCOM è riuscito ad andare a buon fine il suo intervento. Esattamente. Bene, Antonio Gaudioso, insomma, finiamo con una cosa quantomeno positiva. Siamo proprio in chiusura. Per terminare questa trasmissione, dove si può vedere questo vostro report? Anche sul vostro sito, immagino. Sì, su www.cittadinanzaattiva.it si possono trovare tutte le informazioni e anche le possibilità di far tutelare i propri diritti, così come ha fatto il signore di Napoli, non solo magari delegando ad altri soggetti, ma anche avendo tutte le informazioni per poterlo fare direttamente, che è un modo per aiutarsi e per rimboccarsi le maniche. Allora, io la ringrazio, siamo in chiusura di trasmissione, ringrazio anche Fabio Picciolini, presidente del Consumers Forum, che appunto questo tavolo che mette assieme aziende e consumatori e cerca insomma di non arrivare a contenziosi, Mario Finzi, presidente dell'associazione Assutenti, che ci ha un po' chiarito quali sono le questioni, soprattutto dal punto di vista dei temi che riguardano i trasporti. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto, a tutti quelli che ci hanno chiamato, ci hanno mandato sms. La puntata di Salva Danaio per quest'oggi termina qui. Ringrazio anche in redazione per il lavoro fatto oggi Marco Lombardo, in regia Carmelo Lauricella, e Salva Danaio e Deborah Rosciani tornano lunedì. Buona giornata a tutti.